24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Eccoci qui, ci siamo, sono le 7:15 minuti in punto, cari italiani, anche se un po' più debosciati anche noi, oggi un po' più tardi, ma partiamo alle 7:15, però andiamo avanti, fino alle 9:30, quindi partiamo un po' dopo, finiamo un po' dopo e, come diceva una famosa pubblicità, puliamo anche il water. No, allora, siamo qui alle 7:15 e voi che fate, cari pontisti, cari pontaroli, cari pontieri? Siete a fare i vostri ponti lunghi, debosciatissimi come sempre, in vacanza, bravi. Se invece non siete in vacanza e volete dirci dove siete, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi. Noi siamo qui, Pietro Lacorte in regia è qui, Miriam Lucchetti in redazione non è qui, no, ma sta arrivando, è qui, virtualmente è qui, la vedo là dietro, anche se non c'è, ma c'è. E voi ci siete? Beh, questo l'ho già detto 5 volte, comunque, come detto, andremo avanti fino alle 9:30, oggi esondiamo un pochino, rompiamo un po' gli argini e poi rientriamo da domani negli argini. Intanto vi ricordo che parleremo di varie cose. Alle 8:15 ci concentreremo su quello che sta succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle, che è certamente il movimento, la novità degli ultimi 6-7 anni della politica, per cercare di capire, insomma, che cos'è: una vittoria, una sconfitta, un disastro, si rompe tutto, si rompe il giocattolo, no, non è vero, sono questi giornalisti schifosi che raccontano solo questa cosa. Allora avremo ospite Aldo Giannulli, storico saggista e coordinatore di proposte di legge elettorale all'interno del Movimento 5 Stelle. Avremo ospite Francesco Campanella, un senatore che era del Movimento, è stato sfiduciato, è stato di quelli cacciati. Avremo ospite anche Claudio Velardi. E poi alle 9 parleremo invece di un libro sulla burocrazia, scritto da Paolo Bracalini, collega del giornale La Repubblica dei Mandarini, questo è il titolo, la lotta contro la burocrazia. Questo più avanti, intanto andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 2 giugno i titoli, intanto il Sole 24 Ore apre così: semplificazioni, il fisco rilancia con 30 obiettivi. Mentre La Stampa si concentra su ciò che oggi l'Unione Europea stabilirà, la pagella, così si è detto, non solo sull'Italia ma su tutte le raccomandazioni che verranno date ai paesi europei. L'Unione Europea a Renzi: mancano 9 miliardi, questa è l'anticipazione che dà La Stampa. Poi Alitalia Etihad, siamo addirittura d'arrivo per l'accordo, Repubblica, svolta su Alitalia, gli emiri entrano con 600 milioni. Mentre Il Messaggero: all'Italia Etihad parte l'alleanza, e anche Il Secolo XIX all'Italia, la promessa araba. Per il Corriere della Sera invece lo sciopero che divide la RAI. Il giornale: Renzi imbarca gli immigrati, il solito buonismo. Queste alcune delle aperture dei giornali, ma voglio subito partire da qualche articolo che mi ha incuriosito. Il primo è questo. E cari italiani, questa è veramente da tenere se state guidando le mani strettissime sul volante, strettissime, perché se no lo pigliate a pugni, e se come al solito avete tazzine del caffè bollente appoggiatele un attimo, giusto questi 20 secondi. Vi ricordate l'ex tesoriere della Margherita Lusi, che è stato condannato in primo grado a 8 anni per appropriazione indebita di 25 milioni di euro della Margherita, nonché soldi pubblici? Ebbene, Lusi in aula da avvocato per difendere un ladro, e il PM si infuria. Ebbene sì, leggo il titolo di Repubblica, pagina 23, Lusi, che di professione faceva ed è tornato a fare l'avvocato, perché per carità è condannato in primo grado, quindi rimane avvocato, non si può toccare, non si può depennare dall'ordine, siamo garantisti, eccetera, ha difeso un ladro. Non fa un po' sorridere questa cosa? Non lo so, Pietro Lacorte non sorride, ma non lo so, fa uno sguardo un po' come dire boh, un po' come il che sta pensando Quiz di tanti anni fa. E un avvocato difende un uomo indagato per furto, racconta Repubblica. Il fascicolo arriva sulla scrivania del PM incaricato, che quando legge il nome del difensore restituisce il faldone. Non ritiene di essere la persona adatta a seguire quella piccola inchiesta. Motivo di opportunità, accade alla procura di Roma, dove l'avvocato è l'ex tesoriere della Margherita Lusi. E quel magistrato che legge il faldone è lo stesso che dal 2012 ha coordinato le indagini che hanno portato all'arresto e alla condanna dello stesso Lusi a 8 anni di carcere, condanna arrivata appena un mese fa. E il PM si è trovato, è colui che aveva perseguito e fatto condannare Lusi, e se lo ritrova ora avvocato difensore di un ladro. Prassi normale, scrive Maria Elena Vincenzi su Repubblica. Per gli avvocati spiegano che la sospensione o la radiazione all'albo possono avvenire solo quando la sentenza sia definitiva. Non è il caso di Lusi, che è stato condannato solo in primo grado. Dunque, fino a quel momento, Lusi potrà continuare a frequentare le aule in cui si è difeso, i magistrati che lo hanno condannato, e poco importa l'imbarazzo di tanti colleghi che lo hanno visto passeggiare nei corridoi codice e toga alla mano, o lo stupore dei magistrati che se lo sono trovati e se lo troveranno accanto durante un processo. Questo stabilisce l'ordinamento, con buona pace del fair play o del buon gusto. D'altronde, visto lo stile di vita a cui era abituato, l'ex tesoriere avrà bisogno di lavorare, e quindi ha difeso da avvocato un ladro, e vabbè, d'altronde fa l'avvocato e quindi cosa si può fare. Evviva, tenete sempre le mani strette sul volante, eh? Oggi vi voglio fare iniziare questo 2 giugno, giorno di festa, in maniera molto molto serena. Sapete quanto spende la Camera dei Deputati per corsi riservati agli onorevoli per imparare l'inglese? 120.000 euro sono stati deliberati, lo ha svelato il sito Il Portaborse, lo racconta oggi Il Giornale a pagina 10 con Fabrizio De Feo. Il 13 maggio scorso la Camera, guidata da Laura Boldrini, ha pubblicato l'esito dell'appalto per i corsi individuali di lingue estere per i deputati, 60 ore di lezione con tanto di tutor. Un'asta al ribasso conclusasi con l'affidamento del servizio alla Trinity School di Roma, 120.500 euro, tutor a Montecitorio, così non si scomodano neanche, e soprattutto grandissimi risultati, come dimostrano i servizi delle Iene quando vanno a pizzicare un po' l'inglese dei nostri deputati. 120.500 euro. Invece così Pietro La Corte, rimango sul giornale, lui è contento visto che è siciliano, gli racconto questa bella notizia che proviene dalla Sicilia, la racconta Valentina Raffa, pagina 15 del giornale. I furbetti del precariato in Sicilia, sussidi per mafiosi e milionari. Uno dei sussidiati dalla regione, 800 euro al mese, era latitante, è stato beccato ieri, Domenico Albanese, 47 anni, ricercato per 9 rapine in banca, e prendeva 800 euro al mese, su cui Pietro La Corte fa una faccia un po' più, però, 900 euro al mese, anzi 832 euro al mese prendeva il sussidio, che prendeva puntualmente fino a poche ore prima dell'arresto da parte della polizia. Oppure un altro ex sussidiato beccato viveva con un ISEE superiore a 150.000 euro e aveva un patrimonio di 1.100.000 euro, eppure beccava 832 euro al mese. E ancora scoperti 500 lavoratori socialmente utili che però avevano un piccolo particolare: non lavoravano. E questo sempre notizie dalla Sicilia. Vabbè, vi siete, come dire, rasserenati dopo questo inizio? Ok, veniamo a parlare delle cose un pochino più importanti, a cominciare dall'accordo tra Etihad e Alitalia. Si chiude a metà giugno, questa è l'idea, arriva ormai in dirittura d'arrivo l'offerta con tanto di lettera da parte degli emiri, quindi da parte di Etihad. L'obiettivo è dare subito 500 milioni, 60 milioni l'anno prossimo, si può arrivare fino a 600 milioni da parte di Etihad, che vorrebbero entrare con una quota tra il 45 e il 49% del capitale di una newco. in cui saranno conferite le attività operative di Alitalia, ma non ovviamente i contenziosi passati. Questa è la proposta di Etihad. In cambio, la compagnia degli Emirati ha chiesto 2.200 esuberi secchi, meno dei 2.603.000 ipotizzati finora, ma certo esuberi secchi, dunque personale che per Etihad è di troppo. Ovviamente su questo ci sono le interviste. Il ministro ai trasporti Lupi fa due interviste, una al Messaggero, a pagina 3 la trovate, intervistato da Umberto Mancini, dice: una grande operazione, così torna la fiducia sull'Italia. Abbiamo dimostrato, dice Lupi, che se ognuno fa la propria parte, ovvero se governo, soci privati e banche remano nella stessa direzione, si possono raggiungere grandi risultati. Dimostra tutto ciò che è tornata la fiducia sul sistema Italia, visto che un grande gruppo straniero torna a investire da noi. Io ci ho sempre creduto. Prima, durante il governo Letta, ora con Renzi, solo 6 mesi fa, vorrei ricordarlo, si parlava di legge Marzano e di nuovo fallimento per Alitalia, di migliaia di esuberi, oppure in alternativa di regalarla a costo zero a qualche altra compagnia. La strada più difficile che si è scelta valorizza ora al massimo Alitalia. Questo Lupi sul nodo degli esuberi dice: adesso aspettiamo, spetterà al CDA di Alitalia, convocato per fine settimana, affrontare il tema. Certo, però la questione esuberi è la questione che verrà certamente trattata con maggiore delicatezza, come testimonia Raffaele Bonanni, segretario della CISL, che in un'intervista al Secolo XIX a pagina 3 dice: se gli arabi licenziano, noi li rimandiamo a casa. Avete capito? Raffaele Bonanni, che fa la voce grossa con gli arabi. Siamo noi a mandare a casa gli arabi. Se saranno 2.600 gli esuberi, come leggiamo da tempo, noi diciamo no. Così Bonanni risponde a Simone Gallotti sul Secolo XIX. Aspettiamo un cenno dal governo sugli ammortizzatori sociali. Senta, io questo Hogan, James Hogan, numero uno della Etihad, non l'ho mai visto né sentito. Speriamo che adesso ci chiami e vediamo il piano quando sarà pronto. Capito? Raffaele Bonanni fa la voce grossa e James Hogan, leader della e numero uno di Etihad, deve chiamare Bonanni per trattare questa delicata vicenda. Ma chiudiamo la porta già ora? Chiede il Secolo, un po', come dire, sorpreso da questa chiusura quasi preventiva. No, questo no. Come si fa in questo momento a chiudere la porta? Certo, non diremo sì a qualsiasi condizione. Se la prima cosa che dice Etihad è: mandiamo via 3.000 persone, sono già aumentate di 400 nel corso dell'intervista, secondo noi non è molto bello, dice Bonanni. Vogliamo vedere i numeri, il piano. Certo, speriamo che la partita dell'occupazione sia gestibile. Vabbè, la questione dell'occupazione, comprensibilmente, per Bonanni è la prima preoccupazione. La prima preoccupazione, però, raccontano i giornali, anche di rilanciare Alitalia, rilanciare l'Italia e rilanciare anche le rotte, come raccontano tutti i giornali. La Stampa, pagina 8, più voli tra Fiumicino e gli Stati Uniti, meno rotte interne e low cost. Anche il Corriere della Sera racconta che ciò che verrà rilanciata certamente è Fiumicino, mentre i grandi dubbi sono soprattutto su Linate e Malpensa, cioè come rilanciare, come valorizzare gli scali. Staremo a vedere. È certo una vicenda molto intricata, come si sa queste cose in Italia, al di là da una soluzione pratica e definitiva, perché adesso inizierà il solito balletto di polemiche, alcune giuste, altre francamente di cui faremmo volentieri a meno, ma ci saranno certamente. Va bene, vi lascio solo, prima della pubblicità e prima di riprendere tra un attimo la lettura dei giornali, con questo listino prezzi. Un listino prezzi che è stato proposto da un parroco di Pistoia e che è stato affisso fuori dalla chiesa. L'iniziativa è di un sacerdote, parroco, Don Valerio Mazzola, 72 anni. Ha esposto in chiesa un foglio con le seguenti tariffe: per un matrimonio 190 euro, per un battesimo, per un funerale 90 euro. si è affrettato subito a dire che sono offerte libere, ma certo questo ha creato molte polemiche. Alcuni parrocchiani hanno scritto direttamente al Papa. Il parroco creò un listino prezzi, pagina 14 l'Unità. Le polemiche per l'iniziativa di un sacerdote in provincia di Pistoia esporre il tariffario per i sacramenti. La parrocchia si divide, una parte di fedeli si arrabbia, scrive una lettera a Papa Francesco, che al momento però non gli ha ancora telefonato. Va bene, la pubblicità, rientriamo tra un attimo. 24 mattino. Io lo sapevo che tanti di voi eravate qui con noi all'ascolto. Saluto Luciano che mi dice anche oggi lavoro, oppure Andrea, noleggiatore con conducente di Roma. Buongiorno, c'è chi ci scrive, ci fa colazione coi gatti, coi gatti. E quale vacanza siamo in pensione, Michele da Martignano, un abbraccio. O a Matilde che sta scrivendo un pezzo della mia tesi di dottorato, anch'io farei altro. E vabbè, vuoi diventare, fare la carriera universitaria? Allora questo è. E allora questa mattina non si lavora, andiamo a Seregno alle gare di nuoto della figlia. Caro Riccardo, in bocca al lupo alla figlia e soprattutto avete mandato a nuoto e adesso sveglia, forza a portarla alle gare. Saluto il debosciato Luca da Vigevano. Al lavoro, chi sta andando a Racconigi al mercato della carta. Mamma mia, ragazzi. L'esercito di Parenzo, che è già al lavoro per la sessione esami estiva. Ovviamente in bocca al lupo. Saluto anche questo ascoltatore. Anche oggi rompi i coglioni, era meglio una replica, muori. Buona vita anche a te, caro ascoltatore. Chi va in macchina a destinazione bassa modenese, che spera di risorgere malgrado la Repubblica Italiana. Saluto anche Matteo, volontario a bordo della 118 ambulanza Croce Bianca di Milano, a vigilare la salute di tutti, anche sulla mia salute, beh certo. E va bene, insomma, tutti che lavorano, bene, bene, bene, siamo qui. E allora, cari italiani, continuiamo a leggere i giornali con oggi, una giornata importante, perché arrivano le pagelle dell'Unione Europea. L'Unione Europea decide, Stato per Stato, di fare le raccomandazioni, e quando l'Unione Europea fa le raccomandazioni vuol dire, insomma, che ci giudica. Qualcuno dice dai compiti a casa, dalle pagelle. Renzi ieri ha detto non temo alcuna pagella dell'Unione Europea. Sta di fatto che anche il Presidente del Consiglio ha detto ieri vanno cambiate le regole, basta con gli eurotecnocrati, se decidono loro non usciremo mai dalla crisi. Sta di fatto che c'è una pagina sul Sole 24 Ore sulle pagelle ovviamente tra virgolette europee, sui compiti a casa dei big. Chiara Bussi racconta non solo l'Italia, ma le pagelle anche per Francia, Germania, Olanda, Spagna, e fa vedere in un'infografica al Sole 24 Ore molto bene a che punto sono le riforme nei vari paesi europei e quello che potrebbe suggerire oggi l'Unione Europea paese per paese. A proposito dell'Italia, c'è un'anticipazione che è la prima pagina della Stampa. L'Unione Europea a Renzi, mancano 9 miliardi. Questo è il titolo che troverete sulla Stampa. Marco Zatterin, che è il corrispondente da Bruxelles, racconta proprio così: mancano 9 miliardi. La bozza della proposta con le raccomandazioni economiche della Commissione Europea al governo Renzi ribadisce l'invito a rispettare gli obiettivi per la sostenibilità del debito. Non solo il testo, nota anche che la correzione del deficit strutturale pianificata da Roma per avere il bilancio 2014 in equilibrio vale 0,1 punti di PIL, mentre Bruxelles la valuta nello 0,7. La differenza, cioè lo 0,6%, è ciò che va trovato, ovvero i 9 miliardi di cui si parlava in principio. Più fonti assicurano che la Commissione Europea non lo scrive esplicitamente nella proposta per le raccomandazioni al governo Renzi sul come rimettere l'azienda Italia nel giusto binario, ma i numeri dicono sostanzialmente quello, sebbene non sia richiesta una manovra correttiva, almeno non per il momento. Però questa cifra, conti pubblici per l'Europa, al governo mancano 9 miliardi. Queste sono raccomandazioni, sono anticipazioni, scrive la Stampa più avanti nell'articolo. È vero che tutto ciò può essere rivisto all'ultimo, però potrebbe arrivare questa stima di mancanza, di scostamento appunto di correzione sul deficit strutturale dello 0,6%, vale a dire 9 miliardi di euro. Serviranno questi 9 miliardi? Lo scopriremo oggi pomeriggio, quando l'Unione Europea darà appunto le raccomandazioni ai vari paesi. Ieri Renzi si è scagliato ancora una volta contro lo sciopero della RAI. La RAI che dovrà recuperare 150 milioni ha proclamato uno sciopero con l'Usigrai, che è il sindacato. Ebbene, Renzi ieri non ci ha visto più. Ha detto: lo sciopero è umiliante, facciano pure, poi faremo due conti su per esempio quanto costano le sedi regionali della RAI. È bastato questo per fare una sorta di marcia indietro, far fare una sorta di marcia indietro all'Usigrai, che ora vede spaccare il fronte dello sciopero, come racconta il Corriere della Sera, pagina 5, Viale Mazzini: il fronte dello sciopero si spacca, la discussione interna al sindacato RAI, a fondo del Premier anche su Repubblica, voglio cacciare i partiti, lo sciopero è umiliante. Tra l'altro su Repubblica, pagina 10, c'è un articolo che farà certamente anche questo tenere le mani strette sul volante se state guidando. Sentite qui, Matteo Pucciarelli snocciola una serie di conti e di costi della RAI: grattacieli, doppie sedi, un TG da 4 milioni di euro. Ecco i conti della periferia, cioè le sedi regionali. Leggete per esempio: nel 1974 Ettore Bernabei, fiorentino democristiano, potentissimo gran capo di Mamma RAI dal 60 al 74, non badò a spese per la sede proprio di Firenze, dove che sarà ben conosciuta da Matteo Renzi, 18.000 metri quadri di palazzo ad opera dell'architetto fiorentino Italo Gamberini. Oggi ci lavorano 132 persone. Calcolatrice alla mano, fanno 136 metri quadrati a testa. Un appartamento di tutto rispetto per ognuno, volendo. E anche lì, nelle sedi delle 21 RAI che la TV pubblica ha o prende in affitto nelle varie regioni italiane, da anni si ripete, si intima di tagliare sprechi grandi e piccoli. In Sardegna, per esempio, ci sono due basi RAI, una a Cagliari, l'altra a Sassari, una dunque nel capoluogo vero, l'altra in quello politico, perché da lì venivano Francesco Cossiga, Antonio Segni, Enrico Berlinguer. Oggi a Sassari ci lavorano 7 persone, 1100 metri quadri a disposizione. Chiudiamola? Ma no, insorge il senatore PD Silvio Lai, sassarese. Sassari, dice, alla specificità di essere la provincia più vasta d'Italia, spesso interessata a eventi internazionali, eccetera eccetera, così. Oppure Genova: la RAI sta dentro un grattacielo di 12 piani ma ne occupa a malapena 3. E di recente Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, con un inaspettato fuoco amico, scrisse: a cosa servono tutte queste sedi? A produrre 3 TG regionali al giorno, con prevalenza di servizi su sagre, assessori che inaugurano mostre, qualche fatto di cronaca, con l'edizione di mezzanotte che costa 4 milioni di euro l'anno solo di personale. Perché non cominciare a razionalizzare? Diciamo che i costi sono questi. A proposito di 4 milioni di euro, forse al mese, non all'anno, voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Buongiorno, cifre che buongiorno. Tu conosci molto bene. Buongiorno, No, al mese non ancora, devo dire, quelli potresti strapparli tu, sì, con un'adeguata trattativa. Con una rapina in banca, certo. Sì, ma anche può essere. Ti raccomando di non danneggiarmi l'immagine. No, va bene. Non danneggiarmi l'immagine, perché guarda che oggi sul Sole 24 Ore, io sento che tu giustamente sfogli, ma se vai un po' più oltre nello sfoglio, guarda, troverai nelle pagine di norme e tributi che i dipendenti della pubblica amministrazione, e adesso vengono anche condannati per il danno all'immagine, quindi se il loro comportamento è anche lesivo, mettiamo che, per dire, tu faccia lavori all'agenzia delle entrate e, come dire, ti fai aiutare da qualche obolo generoso per non procedere contro qualche comportamento, ebbene questo può essere ritenuto danno all'immagine. Ma spieghiamo tutto nei dettagli in norme e tributi di oggi. E poi ti voglio dire un'altra cosa: oggi è lunedì, comincia una nuova settimana, e devi sapere che questa settimana noi avremo venerdì un grande debutto, quella fattura elettronica. Sì. sai che è un programma molto ambizioso questo, che ci deve portare di qui al 2015 praticamente ad avere tutta una pubblica amministrazione che ragiona tutto con fatture elettroniche. Ecco, noi abbiamo provato a guardare e però negli uffici sono ancora un pochino in ritardo. Ci risulta che nei 6.400 uffici dei ministeri almeno la metà deve ancora completare le procedure. Non è niente di grave, però mancano pochi giorni, bisogna affrettarsi. Mancano pochi giorni, oggi è anche festa, quindi insomma la settimana è corta, come si potrebbe dire, e ci aspettiamo naturalmente che ogni cosa proceda per il meglio, anche perché da questo si aspettano notevoli risparmi che poi si potranno spendere, ma lo ricordavi tu poco fa, anche in sede europea, per dire che siamo stati bravi, abbiamo fatto i compiti. Se no, adesso pensiamo che però i francesi siano stati più monelli di noi, e quindi forse dovranno presentarsi con i genitori, chi lo sa, davanti. Con la giustifica, sì, la giustifica. Dovranno portare la giustifica, non sono stati bene, hanno avuto anche una votazione ultima un po' burrascosa e quindi insomma avranno le loro motivazioni per avere studiato meno di noi, a quanto pare, se insomma le cose vanno come ci si aspetta. E poi hai visto la Tari? La TASI, non la TASI, no, certo, la TARI. No, perché non c'è solo la TARI, c'è anche la TARI. E tu te la stavi scordando, di la verità. E la TARI è meravigliosa, è la nuova TARES, ma anche un po' la nuova TARSU, ma anche un po', insomma, la tassa dei rifiuti. E i comuni, siccome non hanno avuto dei criteri proprio precisissimi per come farla, la stanno mettendo un po' così, a capriccio? No, a capriccio non si può dire, diciamo ognuno segue un suo criterio. Il risultato però è che spesso rincara, cioè spesso il prelievo, specialmente per le attività produttive, ma gli uffici, i ristoranti e così via, e si pagherà di più. A noi spiace sempre dirle queste cose, non è però, bello scriverle, però è la verità. E qualcuno deve pur fare, esatto. Diceva. Senti Mauro, io ho lanciato questa idea, diteci cosa state facendo, guardate qua che paese straordinario che lavora. Emanuele, infermiere, la aspettano 12 ore di turno in corsia, però Emanuele, sappi che stai salvando delle vite, dunque buon lavoro. C'è chi munge capre, perché anche per la festa della Repubblica mungono le capre. Questo è importante, perché non è che le capre abbiano un calendario con i giorni. C'è chi saluta da Capocotta, Biccia, Mostrale, Chiappe Chiare. Caro Simone, non ti malediamo, ma un po' sì. Vabbè, c'è chi mi scrive invece che l'articolo vero era di ieri, ma so che tu l'hai letto, Dudu e Dudina. Sogna questo ascoltatore, Roberto, Dudu presidente del Milan e Dudina vice. Meno male che Mauro Meazza, interista, mi scrive. Interista. In realtà ieri mi sono permesso, proprio leggendo questa segnalazione, di attribuire extra ordinem, si potrebbe dire, il premio alla carta corta. Esatto. Mi perdonerai, insomma, se è giusto. E stavo appunto riordinando questa classifica della carta corta per mandartela, perché anche oggi si apre poi una settimana decisiva per alla 57esima, ovvio. Siamo alla 57esima, decisiva per la fattura elettronica, decisiva per la commissione UE. Ma forse anche per sapere finalmente il calendario della TASI. Chi lo sa. E sono qui che maggiorno su tutte queste cose, però devo dire ancora nella comodità della mia casa. Va bene. Mauro, e allora che dobbiamo fare? Ci sentiremo domani, che non saranno più ponti, non ci saranno più ponti. No, domani si torna alle normali attività lavorative. Mi sembra e giusto. Allora io non ho altro da dire, solo una parola, frase, un rigo appena, una parola. Dico. Traffico. E allora alle 7:49 minuti continuiamo nella lettura dei giornali. La politica, c'è il centrodestra sempre un po' con alcune problematiche da affrontare per la battaglia, che non è una battaglia solitaria, ma certamente che vede da una parte Raffaele Fitto e dall'altra Silvio Berlusconi e i berlusconiani. Battaglia in Forza Italia, Fitto non arretra, così titola pagina 8 il Corriere della Sera, che fa un'intervista anche al consigliere politico di Berlusconi Giovanni Toti e dice no alle primarie che servono ai vecchi potentati, mentre invece Fitto insiste sia alle primarie, oggi anche Mara Carfagna, intervistata da Repubblica, pagina 15, da Francesco Bei, dice: sì alle primarie, non sono una fronda, la leadership di Berlusconi non è in discussione, chiamiamole selezione popolare e democratica, ma l'importante è individuare una soluzione che superi il rischio di una classe dirigente autoreferenziale. Certo però che sembra che lo scontro sia proprio frontale tra Berlusconi e Fitto, tanto che Berlusconi dice ai suoi: vogliono buttarmi fuori, non esiste, e poi conoscerebbero il vero Raffaele, e dice ancora di lui: si sta emarginando da solo. Mentre racconta sempre Repubblica in questo retroscena di Tommaso Ciriaco a pagina 14, i RAS del cerchio magico non lo sopportano più Raffaele Fitto. Sentite cosa avrebbe detto Francesca Pascale di lui: ma avete visto come parla? Quello sguardo fisso in camera, pur l'accento troppo marcato, insomma, non lo sopportano più nemmeno quando lo vedono apparire in TV. Dall'altra parte, problemi su cui ci concentreremo dalle 8:15 ci sono anche nel Movimento 5 Stelle per l'alleanza o non alleanza, alleanza sulla quale si dovrà esprimere la rete. Tra il movimento appunto e lo UKIP di Nigel Farage. Pare che sia tramontata la possibilità di un'alleanza europea con i Verdi, mentre pare che sia più possibile l'alleanza con Farage. Comunque si esprimerà la rete, per il momento Beppe Grillo, che viene ritratto sempre al mare, ieri circola questa foto sui giornali, viene ritratto in bicicletta e mountain bike con tanto di caschetto che gira per le strade di Marina di Bibbona in provincia di Livorno, sta in silenzio Beppe Grillo. Parla Dario Fo, intervistato da Ferruccio Sansa, pagina 3 del Fatto Quotidiano, dice: Beppe, stai attento, Farage c'entra poco col Movimento 5 Stelle. Dice comunque: non è razzista, ha fatto battute stupide, ma una battuta non riflette il modo di pensare profondo. Anche i giornali inglesi, dice Dario Fo, cercano in ogni piega della sua vita. Mi pare abbiano fatto pipì fuori dal vaso. Pensiamo che idea si farebbero, che si farebbe uno straniero del Grillo se avesse letto i giornali italiani, soprattutto quelli asserviti al PD, dice Dario Fo. Comunque non è un'analisi facile, ma credo che Farage sia un po' troppo di destra e abbia poco a che fare col Movimento 5 Stelle. Ma al di là delle alleanze, che succede all'interno del Movimento, ne parleremo alle 8:15 con vari ospiti. Intanto uno sguardo a livello internazionale. Ricordate pochi giorni fa l'attentato al museo ebraico di Bruxelles? Bene, è stato preso l'attentatore, è un francese, si chiama Mehdi Nemouch, 29 anni, è di origini algerine, è noto ai servizi segreti francesi perché era stato di recente a combattere in Siria con i jihadisti. Preso il terrorista di Bruxelles, è tornato dalla Siria, da poco è francese, segnalato ai servizi di Parigi, con sé aveva le armi e anche la bandiera di Al-Qaeda. Ovviamente tutti i giornali titolano: il killer di Bruxelles addestrato in Siria, questo per esempio è il titolo della Stampa. Per l'attentato al museo ebraico è stato arrestato a Marsiglia questo cittadino francese, tra l'altro è stato un arresto così casuale, racconta il Corriere della Sera con Stefano Montefiore, è stato fermato in un controllo di routine, un controllo antidroga su un pullman che da Amsterdam andava a Marsiglia via Bruxelles. Gli agenti si aspettavano di trovare stupefacenti, con lui invece hanno scoperto armi e munizioni per compiere altre azioni. A proposito di sguardo internazionale, c'è polemica, molta polemica sul presidente americano Barack Obama, come racconta la Stampa, come racconta il Quotidiano Nazionale, perché ha deciso l'amministrazione americana per liberare un soldato americano che era in mano ai talebani da 5 anni di rilasciare in cambio 5 pericolosi talebani. È un vero e proprio scambio, un soldato americano per 5 talebani. L'ex ministro degli interni, l'ex ministro della difesa ricercato dall'ONU, un uomo mullano Rullanuri vicino al mullah Omar che comandava le truppe, l'ex numero 2 del ministero dell'informazione e Mohammad Nabi Omari, colui che gestiva la cooperazione tra talebani e qaedisti. Ecco, Francesco Semprini racconta, pagina 10 della Stampa, chi sono gli uomini dei talebani che sono stati lasciati rilasciati dall'amministrazione americana per avere in cambio la liberazione di Bo Bergdahl, 5 anni in mano ai talebani, l'ultimo marine americano che si trovava in questo momento prigioniero in Afghanistan. Il soldato scambiato con i talebani, bufera su Obama, ha ceduto, no? Questo è anche il titolo a pagina 19 del quotidiano nazionale. Spesso si dice con i terroristi non si tratta, e invece Obama, in cambio di un soldato americano, ha consentito a lasciarne 5 liberi. Va bene, ci sono polemiche sui mondiali. I mondiali però del Qatar, sono venute fuori le notizie secondo il Sunday Times, e prometteranno altre notizie di mazzette per l'assegnazione del 2022 mondiale in Qatar. Non sono ancora iniziati quelli del Brasile, già si pensa a quelli del 2022. Ci sono ovviamente articoli su tutti i giornali, ma siamo al momento conclusivo, quello della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali oggi vince il Secolo XIX, che in prima pagina fa un articolo dal titolo così: la settimana è morta, aboliamola. Una provocazione sul web di un americano tale Ben Schreckinger, nome quasi impronunciabile, che ha detto: ormai la divisione dei giorni non è più sabato, domenica, la gente non osserva lo Shabbat, il giorno di riposo, vedete, voi è il 2 giugno, andate a lavorare, insomma, e se abolissimo la settimana? Ma che... Ma andiamo al giornale radio, dai! Sono le 8:15, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Siamo anche oggi in diretta, siamo in diretta fino alle 9:30. Di che parliamo in questa parte di trasmissione? Beh, al di là di come abbiate votato, se avete votato alle ultime europee, a mio parere, questo è il mio pensiero, quello di Grillo è il movimento politico più interessante da analizzare negli ultimi 5-6 anni. Intanto perché è il partito politico più interessante negli ultimi anni? Intanto perché di fatto fino a 5-6 anni fa, 7 anni fa, adesso non so per la precisione, il Movimento 5 Stelle non esisteva neppure. Poi certamente è interessante perché lo ha fondato un ex comico insieme a questo esperto di comunicazione definito guru, no? Gianroberto Casaleggio. E poi è perché è un movimento e non è un partito. Io l'ho definito partito, ma in realtà è un movimento che vorrebbe azzerare, spazzare via tutti gli altri partiti. E poi è un movimento che ha preso il 26% alle ultime elezioni, quanto era alle politiche, e oggi alle europee il 21%, cioè un elettore su 5 di quelli che sono andati a votare hanno votato appunto il Movimento 5 Stelle. Eppure si parla già di movimento che si spacca, movimento sconfitto che rischia di disgregarsi. È un movimento particolare anche per la aggressività e di toni non solo dello stesso Beppe Grillo. Molti giornalisti lo sanno, lo so anch'io di persona, basta parlare del Movimento 5 Stelle, subito arrivano messaggi sui profili Twitter: giornalista asservito, amico dei potenti, prezzolato, servo, uomo di regime. Ecco, vorremmo cercare di parlare del Movimento 5 Stelle attraverso persone che lo conoscono, persone che lo osservano con attenzione, perché sono un osservatore della politica molto attenti, e anche col vostro contributo. 800 24 00 24. Non parliamo solo della possibile alleanza con lo UKIP di Nigel Farage, parliamo ovviamente anche di quello, ma di capire che succede all'interno del Movimento 5 Stelle. Lo facciamo con Claudio Velardi, che torna con noi. Buongiorno, grande osservatore della politica, cura il sito thefrontpage.it. E tra l'altro voglio salutare anche Aldo Giannulli, che è uno storico, un saggista, uno scrittore, ma è anche colui che ha coordinato, no, la questione della proposta di legge elettorale per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno, buongiorno. Giannulli. Buongiorno. Allora, intanto Giannulli, che effetto fa sentire il Movimento 5 Stelle ha perso, sconfitto, rischia di disgregarsi, eppure al 21% di preferenze? Sono i soliti, insomma, giornalisti un po' di regime che lo descrivono così? No, un momento, attenzione. Il risultato in sé non particolarmente negativo, perché comunque è un movimento di protesta, e mentre di solito movimenti del genere superano difficilmente la soglia del 10-15%, qui abbiamo un movimento che si consolida oltre la soglia del 20%, quindi in sé non è poi questo risultato così negativo. Lo diventa rispetto alle aspettative eccessive che si era fatto, cioè l'idea di poter addirittura sorpassare il PD, essere il primo partito, eccetera. Quindi c'è sempre un effetto rebound quando ci si promette troppo e poi il risultato magari in sé non è negativo, ma è troppo sotto l'asticella delle aspettative. Certo, è stata messa troppo alta l'asticella. Ecco, quindi questo è il primo dato. Poi bisogna dare presente una cosa, movimento molto giovane, messo insieme molto sul piano della protesta, dell'esasperazione, giustissima peraltro nei confronti di elite politico-finanziarie che stanno facendo degenerare ulteriormente la crisi senza portarcene fuori. Naturalmente questo significa una cosa, movimento messo insieme molto più sull'onda dell'entusiasmo e quindi in quanto tale molto fragile poi rispetto alle sconfitte, quindi la reazione che c'è non è soltanto dovuta alla stampa che un po' diciamo ci bagna il pane, ma c'è anche effettivamente molto sbandamento e molto, c'è una mancanza di esperienza politica che fa gestire questi momenti in modo un po'. Però non credo che si possa parlare di disgregazione, questo mi sembra decisamente eccessivo. No, questo certamente no, però anche perché sarebbe da pazzi con il 21% di consensi. Però è interessante già quello che lei ha detto, una cosa sulla quale vorrei con Claudio Velardi concentrarmi, cioè un movimento di protesta che vuole andare al governo non è una sorta di contraddizione in termini, nel senso che spesso si dice il movimento di protesta, i movimenti di protesta più di una certa soglia non riescono a raccogliere, no, all'interno della popolazione. Ma i movimenti di protesta sono la febbre, misurano il malessere del sistema, e quindi Grillo è stato il misuratore della febbre del sistema l'anno scorso di fronte a proposte politiche alternative molto deboli, quella di Bersani innanzitutto. E oggi la febbre sta calando perché dall'altra parte c'è Grillo, c'è Renzi. È del tutto evidente che la sconfitta di Grillo che c'è stata è dovuta al fatto che è arrivato sulla scena uno sul quale il sistema diciamo punta per autoriformarsi, per cambiare, per rimettersi in piedi. Quindi in qualche modo il futuro di Grillo non lo decide Grillo, diciamo la verità. Lo decide il funzionamento del sistema. Se Renzi vince le sue sfide e se il centrodestra si rimette in piedi senza Berlusconi ma con un nuovo leader che nasca contro Berlusconi, il futuro di Grillo sta in quel 10-15% che diceva Giannulli e che è la soglia tradizionale di un partito di protesta. Perché nel frattempo non è che Grillo ha costruito né può costruire una cultura di governo, perché non ha una cultura politica il movimento, come si vede da quello che sta succedendo anche in sede europea, le alleanze con Farage eccetera, non ha classe dirigente, non ha programmi. Quindi diciamo il futuro di Grillo è deciso fuori di Grillo, è deciso dal sistema. Cioè se Renzi fa le cose, caro Giannulli ha sentito, se Renzi fa le cose non ha più senso, secondo l'analisi di Velardi, oppure ha un senso ridotto al 10-15% l'idea della protesta, e al contrario invece se non si riesce a risolvere le cose, ecco che allora la protesta potrebbe aumentare. No? Non sono del tutto d'accordo. In che senso? Intanto, se è vero, ma questo è vero sempre però, che il destino di ciascuno è legato a quello che fanno gli altri, quindi vale per Grillo, però vale anche per Renzi una cosa, che la capacità di autoriforma del sistema non dipende a Renzi, ma dipende da fuori, dipende anche molto dall'andamento della crisi. E quindi in primo luogo bisogna capire poi se la crisi, e non è soltanto un fatto italiano, è un fatto mondiale ed europeo, dove andrà e che cosa produrrà, prima cosa. Secondo, bisogna tenere presente una cosa, non scambiamo per tendenze epocali congiunture. Renzi ha potuto giovarsi di una serie di effetti positivi. Il primo effetto importante è stato l'effetto luna di miele. Lui è appena arrivato, aveva dietro il successo delle primarie, eccetera. Il secondo è che c'era un'intera area, quella di Monti e quella di Giannino, che totalizzavano il 12% dei voti, che praticamente si sono trovati senza offerta politica, perché non c'era nessuno a rappresentarle. E quelli sono andati da Renzi. E quelli Renzi se li è ingoiati. Dopodiché, se Renzi riuscirà o non riuscirà, lo staremo a vedere. Nello stesso tempo, attenzione, è vero che il Movimento 5 Stelle è un movimento che nasce come di protesta, che ha una serie di contraddizioni, tutto questo è vero, però attenzione, perché talvolta i movimenti di protesta poi si trasformano e diventano soggetti attivi, capaci anche di essere soggetti di governo. Sì, sì. Quindi attenzione, perché anche lì non è che le bocce stanno ferme, non stanno ferme nel sistema, ma non stanno ferme neanche no, nel però questa idea di essere un po' contro c'è tutti i giorni. Per esempio, per entrare la questione delle alleanze, oggi mi ha molto colpito, sentite cosa dice Dario Fo, intervistato al Fatto Quotidiano oggi sulla questione dell'alleanza con Farage. Sì. Allora, Farage non è un razzista, ha fatto delle battute stupide, ma una battuta non riflette il modo di pensare profondo. Certo che, e questo è il punto, anche Claudio Velardi dice Dario Fo, pensiamo che idea si farebbe uno straniero di Grillo se si leggessero i giornali italiani, soprattutto quelli asserviti al PD. Ecco, c'è questa idea di essere un po' contro tutti che per molti paga, per altri è un po' insopportabile. C'è questa idea di vedere tutti o con noi o siete nemici, asserviti al regime, non si sa quale regime, servi, prezzolati, eccetera. Velardi, paga dal punto di vista comunicativo questo fronte, questo fare uno scontro così da ariete? Velardi? Direi un velo pietoso, perché i media sono stati tutti con Grillo, hanno pompato Grillo fino all'impossibile. Il principale giornale moderato italiano, il Corriere della Sera, ha fatto alcuni veri e propri endorsement nei confronti di Grillo. E c'è un motivo, il motivo è che i media hanno bisogno di un Grillo forte, perché più la politica è debole e più a comandare, a fare l'agenda sono loro. Tu sai della mia polemica, diciamo, con i giornali e giornalisti, sì, e quindi nulla, morti, nulla di giornalisti, nuovo, giornalisti morti. Il problema è che da 20 anni, con una politica debole, a guidare l'agenda politica italiana sono i giornali. E questa volta avevano scommesso con il marketing dei sondaggi, puro marketing, che Grillo dovesse crescere a dismisura. Io nella mia modestia avevo detto, come testimoniato da un video 3 mesi fa, che Grillo avrebbe perso, perché non c'erano le ragioni strutturali perché vincesse, non c'erano, infatti non ci sono state, ma i giornali l'hanno pompato oltre ogni limite, con veri e propri endorsement. Però è vero che i giornali mettono spesso in risalto anche, almeno queste sono le critiche che fanno il movimento, mettono in risalto gli aspetti critici, le divisioni, le contraddizioni, le problematiche. No? Ma non è per quello che Grillo ha perso, perché la gente di queste cose, a parte, diciamo, non se ne frega niente di se dovesse la gente decidere sulla base dei dibattiti interni di Grillo sarebbe al 3%, non al 20%, è chiaro. Cioè, Grillo appunto è espressione di una protesta molto più generale, molto più globale, non è che si decide perché, non so, perché hanno fatto il comunicato segreto i comunicatori del gruppo. Sì, queste cose infatti sono lette da 4 persone. Il figlio di Casaleggio, fenomeno nepotistico, che appunto, ecco, se uno dovesse giudicare solo da questo, no, arriva improvvisamente sulla scena il figlio di Casaleggio, cioè un fenomeno nepotistico che neppure nel peggiore partitino della Prima Repubblica, diciamo, avviene. Ma non è che l'elettore di Grillo si spaventa per questo e non vota più Grillo, no, le no. dinamiche sono molto diverse. No, anche perché, come l'abbiamo detto, sono lette dai giornali, sono scritte sui giornali e sono lette da una minoranza di persone. Però vorrei far sentire a Giannone. No, vabbè, ma sappiamo la polemica di Velardi a dire che siamo tutti morti, siamo zombie morti che camminano, noi giornalisti, ma anche tu lo sei, quindi insomma, vabbè, anche Giannulli lo è. Allora, però, vogliamo volevamo far sentire quest'audio, che è ciò che Beppe Grillo ha detto dopo la sconfitta, o la, comunque, dopo le ultime elezioni. Ecco, ha detto sconfitta, mannaggia, adesso mi massacreranno. Dopo le ultime elezioni, cancello, sia cancellato dal verbale sconfitta. Volevo dire dopo le ultime elezioni. Beppe Grillo. Forse questa è l'Italia formata ancora da generazioni di pensionati che forse non hanno voglia di cambiare, di pensare un po' ai loro nipoti, ai loro figli, e preferiscono stare così. Preferiscono stare così. Allora Giannulli, questo che modo di fare è? Cioè spesso si è detto non c'è stata un'autocritica, dire praticamente è un paese di pensionati che non vogliono cambiare, come dire, non volete cambiare? Siete sbagliati, no? Non era meglio più, o non è meglio più, un'autocritica piuttosto che dire insomma non mi votate, peggio per voi, no? Questo allora, è il concetto. Intanto un flash, è vero che i giornali hanno parlato molto del Movimento 5 Stelle, ma in genere hanno parlato in modo molto ostile, non c'è piccola scivolata di qualche deputato del Movimento che non venga immediatamente ripresa, amplificata, come se gli altri deputati fossero tutti scienziati. Però lei non crede che, cioè, no, ma non crede che succede con tutti, cioè gli articoli sui razzi, gli scilipoti, la biancofiore, sì, le prese in giro, Dudù, cioè, sì, cioè, però razzi e scilipoti non vengono presi come rappresentativi delle rispettive forze politiche. Sono delle macchiette in proprio, mentre invece qui c'è il tentativo di macchiettizzare un intero movimento. Detto questo, la reazione di Grillo, ma la reazione di Grillo è chiaro che ha dentro molta umoralità, è chiaro che c'era molta delusione, molta amarezza, e quindi quella reazione, tra l'altro anche questa identificazione, diciamo, degli anziani con i pensionati, e non tutti gli anziani sono pensionati, c'è un meccanismo un po' diverso. Poveri pensionati sono quelli che più di tutti stanno pagando questa crisi. Però detto questo, è vero che c'è un riflesso un po' conservatore nel paese, c'è paura dei cambiamenti, c'è una reazione, questo poi è un paese tendenzialmente moderato, che non ama molto le svolte. E da questo punto di vista c'era bisogno di un'autocritica? C'era e c'è. Secondo me la principale autocritica è aver pensato che un movimento del genere potesse dritto dritto andare dalla protesta al governo come da Porta Pia al Quirinale dritto dritto per via 20 settembre. Non è così, cioè la politica è fatta di curve, è fatta di alti e di bassi, è fatta di sconfitte, e spesso le sconfitte insegnano più delle vittorie. Quindi, certo. Da questo punto di vista, secondo me una riflessione più pacata, secondo me, verrà. Per quanto riguarda il problema... È caduta la linea, ma adesso la recuperiamo. Facciamo così, allora andiamo in pubblicità, recuperiamo la linea con Aldo Giannulli, stiamo con Claudio Velardi. Allora, tanto, cari elettori, o se non siete elettori, se avete votato, non avete votato, il Movimento 5 Stelle, stiamo parlando del movimento di Beppe Grillo, 800 24 0024, per intervenire in diretta. Spesso si dice, per esempio, le proposte del Movimento 5 Stelle e quello che fanno i parlamentari non vanno sui giornali, perché, come ha detto Giannulli, uso le sue parole, si tende a macchiettizzare il movimento e non a mettere in luce quello che si fa di positivo. Spesso c'è da dire che anche per tutta la politica è così, per tutti anche gli altri partiti, non è che vedo che si parla molto di grandi proposte che vengono portate avanti dai singoli parlamentari. Però parliamo di voi, del Movimento 5 Stelle, diteci la vostra, tra poco rientriamo in diretta. 24 mattino. Allora, 800 24 0024, stiamo parlando del Movimento 5 Stelle con Claudio Velardi, con Aldo Giannulli. Ci ha raggiunto anche il senatore Francesco Campanella, che era nel Movimento 5 Stelle, ora nel gruppo misto. Buongiorno senatore, eccoci qua. Buongiorno. Allora, voglio salutare come ascoltatori Giacomo da Prato. Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, senta, io l'ho chiamata appunto, mi permetto di fare un intervento molto breve, volevo semplicemente dire che lo scontro ideologico in queste elezioni è mancato, abbiamo avuto a fronte di una situazione gravissima in Italia dal punto di vista economico un governo Renzi che ha potuto mettere in atto un'operazione di marketing straordinaria mai vista prima, che è andata a toccare le tasche degli italiani e non le loro coscienze, dunque la possibilità di poter rendere conto agli italiani attraverso un meccanismo di idee nella fattispecie come quelle del Movimento 5 Stelle si è dovuto scontrare con la possibilità politica di potersi innalzare a poter mettere nelle tasche. Mi scusi Giacomo, ma lei cosa ha votato? Ha votato il Movimento 5 Stelle? Se posso io saperlo. Personalmente sì, personalmente sì. Ho votato il Movimento 5 Cioè lei dice Renzi in pratica, io brutalizzo, sa, perché se è comprato il voto degli italiani con questa storia degli 80 euro. Come non voglio prendervi tempo, voglio lasciare la parola ai suoi ospiti, sì. Le dico l'ultima cosa e la lascio. So per certo anche di un paio di governi amici di Renzi e che hanno qui in Italia tantissimi, appunto, tanta popolazione regolarmente residente in Italia, che sono stati incitati dai loro capi di Stato a votare Renzi. Governi amici, che vuol dire? Scusi, non ho capito. Governi. Per esempio, il governo albanese ha mandato un SMS a tutti gli albanesi residenti in Italia, le olive, perché io ho tanti dipendenti albanesi. Sì. Posso dire che questa è una cosa reale, ha mandato un SMS a tutti i residenti in Italia avente diritto di voto, di dire votate Renzi. Esatto. Votate. No, qua, votate. Velardi, qua stiamo al complotto sì, albanese. Ma nel mondo 5 Stelle fioriscono, diciamo. Dopo subito criticano prezzolati, servi, non credete. Io non so. Le scie chimiche alle scie albanesi. Eccolo lì subito. Vabbè. No, posso dire una cosa, chiedo scusa Milan, sì. su quello che diceva prima, perché Giannulli è un uomo intelligente, poi nel mondo grillino ci sono tante cose. E lui parlava come Grillo, diciamo, di questo conservatorismo degli italiani. Ora però c'è uno dei massimi dirigenti del grillismo, del movimento, che è il presidente della commissione di vigilanza, Fico, sì. Che a proposito di conservatorismo sta difendendo a spada tratta lo sciopero di questi signori, di questi funzionari, di questi dirigenti RAI. Allora dov'è il conservatorismo? Io ho l'impressione che Grillo sia mille volte più conservatore di chiunque altro. Se mi difende la RAI per come oggi, io vorrei dire al signore Di Prato che parlava degli albanesi di giustificare questi atti del movimento di Grillo. Lasciamo perdere le chiacchiere e le leggende. Chiaro? Concretamente il movimento 5 Stelle sta difendendo la RAI e non vuole che si riformi la RAI. Ora, questa è una posizione conservatrice. Ma poi non so, forse sullo sciopero, che Fico sia un conservatore della RAI così com'è, io l'ho avuto varie volte, ho avuto un paio di volte ospite, insomma, in realtà pensa anche tante altre cose su come riformare la RAI. Però interessante questo punto. Maurizio della provincia di Roma, buongiorno. Maurizio, pronto? Dica. Buongiorno Alino, perdoni l'emozione, sì. non sono un analista politico. Ma no, dite. Guardi, io sono un pensionato sul campo, diciamo così, che frequento i centri anziani, le università delle terze età cosiddette, e fatta questa premessa, sono d'accordo sul fatto che la proposta o noi o loro ha spaventato gli elettori, sì. In particolare quelli anziani. Sì. Sarebbe interessante, oltretutto, chiedo agli analisti politici, di valutare l'età media di coloro che non sono andati a votare. Questa statistica non so se sia possibile, ma sarebbe opportuna averla. Il Movimento 5 Stelle è un movimento di giovani, questo sono certo, io sono un elettore, io ho 68 anni, sì. Sono un elettore, quindi li conosco, ed è, come tutti sanno peraltro e vedono, è un movimento di giovani. E quanto piace soprattutto è quanto Grillo ha avuto il coraggio di dire che il movimento si scioglierà quando la politica sarà purgata. Sì. E quindi a questo punto è stata data a Renzi, quello che si sente nell'aria, un'ultima chance. Vabbè. Poi vinciamo poi. Vinciamo poi. Vinciamo poi. Insomma, Maurizio, questa è l'analisi che ha fatto un po' la rubata un po' a Beppe Grillo. Vorrei sentire il senatore Francesco Campanella, uno che il Movimento 5 Stelle l'ha visto dal di dentro. Certo, adesso si dirà, senatore, lei parlerà anche con magari con che spirito? Lo spirito della rivalsa, lo spirito della vendetta politica, lo spirito di volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa. Intanto le chiedo questo: ha perso secondo lei il Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni? È una domanda retorica. Sì, ha perso molti elettori. Diciamo che ha perso probabilmente anche la spinta fortissima che aveva mostrato alle elezioni politiche dello scorso anno, anche se questa spinta non era stata confermata alle amministrative. E ha perso perché? Per questi toni? Perché si è sbagliata la campagna elettorale? Perché? Guardi, provo a fare a universalizzare delle esperienze dirette che ho avuto. Parlando con molte persone, hanno scelto di votare Renzi impiegandolo come un baluardo nei confronti del Movimento 5 Stelle, un po' come nei primissimi anni 50 si usava la Democrazia Cristiana contro il Partito Comunista, cioè qualcosa che li ha intimoriti nelle cose dette anche da Grillo, anche perché diciamo che al di là della sua grande energia, ecco, spesso usa questa energia con intemperanze verbali che poi si pagano. Dire io sono oltre Hitler non aiuta, diciamo, ad avvicinarsi all'elettorato, non dico moderato, ma anche semplicemente di buon senso. Sì, quindi ha pagato questi toni sbagliati, insomma, questo volere in qualche modo, questo spaventare l'elettorato moderato che è in prevalenza. Esattamente. Ma non è una novità, diciamo, Grillo in alcuni post più vecchi aveva mostrato una certa insofferenza nei confronti di categorie, diciamo le categorie vado a spanno, del reddito fisso, viste come guardiane della conservazione, e quindi faccio riferimento anche a impiegati pubblici, a pensionati. Lei consideri che io sono un impiegato pubblico nella vita normale, sì. E questa cosa la notai e provai a fargliela notare, però ecco, Grillo è piuttosto impermeabile alle considerazioni critiche. E questo non lo aiuta in questa occasione, non lo sta aiutando adesso in questo suo avvicinamento a Farage, che è visto male, ma su questo tra l'altro deciderà la rete, no? come si suol dire con questo voto. Però facciamo così: devo dare le informazioni sul traffico, poi voglio ripartire anche da Aldo Giannulli, perché voglio chiedere ad Aldo Giannulli una delle critiche che viene fatta spesso dal Movimento 5 Stelle è questa, cioè quando noi facciamo le cose, quando lavoriamo in Parlamento, quando proponiamo leggi, quando ci spacchiamo la schiena per farci notare, sui giornali di tutto il lavoro che facciamo non emerge nulla. Anche questo in qualche modo è una sorta di complotto dei mezzi di informazione che tendono a sminuire il lavoro del Movimento 5 Stelle. Ripartiamo da qui tra un attimo dopo il traffico. 24 mattina. Allora, eccoci qua, le 8:49 minuti. Ricordo che oggi andremo avanti fino alle 9:30. Per concludere questo argomento, Giannulli, perché non emerge il lavoro che i parlamentari fanno sui giornali? È colpa dei giornali? Senta, intanto io a un certo punto non ho sentito più la trasmissione perché è caduta la linea, sì, ma quindi non so fino a che punto è passato. Ma c'era la pubblicità, che... quando è caduta la linea siamo andati in pubblicità, poi sì, abbiamo ma non so fino a che punto diciamo quello che dicevo è passato. Va bene, ma adesso, no, perché c'era un punto in particolare, non so se... E ce lo ridica, vediamo. Non so se è passato quello che dicevo a proposito dei figli d'arte no, in no, politica. No, ce lo dica. E allora sì, perché ho sentito fare questo rilievo sul figlio di Casaleggio, che tra l'altro per ora è solo una comparsa, e volevo dire che non è vero che nella Prima Repubblica non ci fosse il fenomeno dei figli d'arte. E proprio Velardi dovrebbe ricordare il caso di Massimo D'Alema, figlio di un altissimo dirigente del PC. Sì, però quindi, credo che Giannulli, la critica sia, ma proprio Beppe Grillo, che appunto vuole distruggere quel vecchio sistema, casca sullo stesso vizio. No? Vabbè, però non diciamo che certi fenomeni sono un'esclusiva, che non sono mai No, assolutamente no. Si sono verificati e riguardano per esempio il caso di D'Alema. Detto questo, ma guardi, come dicevo prima, i giornali hanno un atteggiamento sicuramente sfavorevole, altro che endorsement, nei confronti del Movimento 5 Stelle, che si sostanzia anche nel non far passare le notizie, diciamo, sul lavoro che fanno. Questo però, onestamente, non credo che dipenda da nessun particolare complotto dei giornali. Credo che ci sia un po' una sorta di pregiudizio sfavorevole, un po' c'è il fatto, bisogna dirlo, che anche i grillini se la tirano addosso, perché è chiaro che se spari dalla mattina alla sera contro i giornali, quelli poi non ti vogliono bene. È un po' come Berlusconi che spara sui magistrati e poi si lamenta di certe cose, però è un po' anche l'atteggiamento del PD nei confronti dei 5 Stelle, insomma. Ma, un po anche, ma, non è un po', ma scusi, non è un po' anche il fatto che i giornali non parlano più della politica parlamentare, nel senso dei resoconti di quello che si fa? Ormai sui giornali c'è il gossip della politica, ma questo a 360 gradi, oppure le grandi interviste, non so, si intervista il Presidente del Consiglio, il Ministro. Però c'è sempre, questo è un pessimo vizio dei giornali, che hanno preso i giornali, il privilegiare quello che fa l'azione di governo. Quello che fa il governo viene amplificato, quello che accade nelle assemblee parlamentari viene taciuto, di conseguenza chi rimane fuori è l'opposizione, perché la maggioranza non c'ha bisogno, c'è il governo. È chiaro, passa solo l'idea della maggioranza. Vediamo un po' così Velardi, quando si comincia a perdere, uno se la prende con la comunicazione, se la prende con i giornali, si fanno gli studi, gli approfondimenti per dire le cose che diciamo nessuno ne parla e così via. Quando ha vinto Grillo l'anno scorso, quando ha preso il 25%, mica l'ha preso perché i giornali parlavano bene di Grillo, l'ha preso perché era un movimento nascente che cresceva nella società. I giornali contano solamente per quello che ci diciamo tra di noi nel circuito politico mediatico. È chiaro, no? Questo è il punto di fondo. E quindi non è in questione. Insomma, io invito a riflettere su una cosa: ogni qualvolta un governo o una forza politica perde, comincia a prendersela con la comunicazione. Abbiamo sbagliato comunicazione, la comunicazione non ci ha dato retta, i giornali non hanno parlato di noi. Si rifletta invece su altro, per esempio, venendo a quello che diceva l'ascoltatore, si rifletta sul fatto che l'ascoltatore di prima, che i giovani hanno votato PD in queste elezioni, il 35% dei giovanissimi, 35,5 per la precisione, ha votato il PD, solo il 25,4 si è affidato a Grillo. Allora, vedete come i luoghi comuni dovrebbero essere sconfitti prima di tutto dalla comunicazione, dai giornali, giornalisti che sono morti, eccetera, eccetera, ok? Per rimettere un po' le cose con i piedi per terra, non è questione di comunicazione, è questione che Grillo ha toppato, ha cercato la spallata, e malgrado l'endorsement esplicito che ha ricevuto dai alcuni giornali, il Corriere della Sera, per capirci, dico a Giannulli, ha endorsato Grillo, ha dato in una pagella 8,5 a tal Luigi Di Maio, capogruppo di non so cosa del Movimento 5 Stelle, che a Pomigliano ha preso qualche Pomigliano ha preso qualche decina di voti, cioè per dire di come, diciamo, tra i giornali e la realtà c'è per fortuna un grandissimo divario. Morti. Allora, io vorrei capire, senatore Campanella, poi torno a Giannulli. Senatore Campanella, è davvero difficile, glielo chiedo da ex del Movimento 5 Stelle, far apparire il lavoro che fate sui giornali, e si può davvero dire la colpa è anche di questo, del fatto che non veniamo messi in buona luce, non venivamo messi in buona luce? Guardi, è difficile comunque dare visibilità al lavoro parlamentare sui giornali. Questo perché la maggior parte del lavoro parlamentare è orientato in maniera molto forte dal governo, perché l'attività legislativa è fondata quasi esclusivamente sui diritti di legge, quindi sono di iniziativa governativa e danno anche la tempistica al Parlamento. A questo, per cui l'attività dei parlamentari in genere si limita a essere correttiva, emendativa degli atti del governo che hanno visibilità. Ora, laddove gli atti del governo incrociano in maniera forte gli interessi di gruppi visibili della società civile, alcuni parlamentari riescono a farsi interpreti in maniera felice, allora ecco, riescono ad avere visibilità. Se no, diciamo, per avere visibilità bisogna salire sui tetti o fare cose strane. Diciamo certo. Che fondamentalmente gli argomenti da trattare da parte dell'informazione derivano da circuiti interni all'informazione sì. stessa, e noi riusciamo a intercettarli soltanto in qualche caso. In qualche caso. Giannulli, per concludere, voglio chiedere a Giannulli cosa deve fare ora, secondo lei, Beppe Grillo per rilanciare il movimento, per recuperare almeno quel 26% dell'anno scorso. Io anche oggi sul mio blog suggerisco alcune cose. Sicuramente non sono convinto che gli convenga fare l'accordo con l'UKIP in termini di immagine, anche se devo dire c'è molta strumentalità sì. nell'attacco che gli viene fatto su questo piano, però credo che non sia una cosa. Credo che convenga aprire una riflessione, superare lo stato di agitazione, di prostrazione che c'è nel movimento, il modo con cui si sta discutendo, sì. e avviare una riflessione molto più pacata. Io gli consiglierei di cominciare a porre da adesso le premesse per la campagna elettorale delle amministrative dell'anno prossimo, che sono sempre, le amministrative sono sempre un test sfavorevole al movimento. Siamo qui, sono le 9:07 minuti, sono ancora Alessandro Milan. Oggi andremo in diretta fino alle 9:30, minuto più, minuto meno. E poi da domani ripartiremo dalle 6:30 alle 9, il nostro orario consueto. Di che vogliamo parlare da qui alle 9:30? Vogliamo parlare intanto di un libro. Un libro che è stato scritto da un collega del giornale, si chiama Paolo Bracalini, che saluto. Buongiorno Paolo, eccoci qua. Ciao, buongiorno. Il titolo del libro è La Repubblica dei Mandarini, Marsilio Editore, viaggio nell'Italia della burocrazia, delle tasse e delle leggi inutili. Beh, insomma, intanto Paolo, hai giocato in casa, nel senso, abbastanza un gran classico, no? L'Italia dei mandarini, della burocrazia, sì. Un po' renziano come libro, no? Beh, è un tema che Renzi ha sposato, ma non è il primo, diciamo, a dire di voler abbattere questo groviglio spaventoso di leggi, di cavilli, di norme, la maggior parte delle quali inutili, che poi paralizzano il paese. Quindi... certo. No, tra l'altro in questo libro è un percorso tra storie folli o che sembrano folli ma che sono assolute realtà. Una fra tutte, e tu la racconti proprio all'inizio, e io lo so per certo perché spesso quando vado anche in un ristorante sotto casa della mia amica, dove spesso vado a dire, mi ha detto un giorno, ma lo sai che un giorno è venuta la Guardia di Finanza a fare un controllo, come si fa di routine, e ha iniziato a chiedermi, mi dica un po' quanti grammi di pasta servite come primo piatto, e dice, ma non lo so, 150, no, secondo gli studi di settore, secondo è 80 grammi, quanto sugo mettete, quanti cucchiaini di olio mettete per fare il sugo, cioè queste cose che sembrano follie, sono cose invece, giusto per parlare di burocrazia, assolutamente vere, ma è davvero così, tu lo racconti nel libro. Sì, sì, me lo faccio raccontare da un ristoratore romano, sono arrivati a fargli uno dei tanti controlli che subiscono quelli che provano a lavorare in questo paese, e gli hanno detto, gli hanno confrontato gli scontrini con la quantità di pasta che ha comprato, e secondo loro lui avrebbe fatto del nero perché ha meno scontrini rispetto a quelli che corrispondono alla dieta del burocrate, per cui un piatto di pasta deve essere fatto da 80-100 grammi, non di più. Questo in un ristorante? Questo in un ristorante. Il ristoratore gli ha detto, ma io faccio i piatti abbondanti perché i miei clienti sono abituati ad avere i piatti abbondanti. Niente, è finita come finisce nel 90% dei casi, che gli hanno detto, guardi, le veniamo incontro, ci dia 5.000 euro e chiudiamo qua. Quindi ha dovuto pure ringraziarli per aver pagato una multa perché da più pasta del dovuto ai suoi clienti. No, ma infatti questo è un gran classico che hanno detto, mi hanno riferito anche vari commercianti. Poi, per carità, la ragione, caro Paolo, non è mai da una parte o dall'altra, ma molti dicono la sensazione quando lo Stato si presenta sotto forma, in questo caso di guardia di finanza da noi, è che vadano a colpo sicuro per dire devono recuperare dei soldi, e quindi il metodo per recuperare dei soldi lo trovano sicuramente, perché se mi vengono a chiedere quanti grammi di spaghetti metti in un piatto sono troppi rispetto a questo, e quindi secondo noi tu hai fatto dell'ero, è chiaro che alla fine qualche soldo lo recuperano per forza, no? Esatto, c'è proprio uno stato parassita, no? Che va, esce per cercare di spillare dei soldi a un negozio, a un ristorante, e siccome c'è una marea infinita di norme sulla sicurezza, sullo smaltimento dei rifiuti, sull'ambiente, sullo stress dei dipendenti, su come deve essere fatto il bagno, che è impossibile essere in regola con tutto, perché nessuno riesce a stare dietro a tutte queste norme, che tra l'altro cambiano continuamente, come vediamo adesso con la TASI, l'IMU, e quindi qualcosa di irregolare te lo trovano e quindi ti fanno una multa. Ma l'agenzia delle entrate, che io indago su come funziona, fa proprio così, cioè loro dicono abbiamo un obiettivo di recuperare tot milioni di euro, andate in giro e fate sanzioni in modo da avere questo obiettivo, anche perché i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno dei premi belli consistenti a fine anno per quello che riescono a, gli accertamenti che riescono a fare. Allora, tu sbatti in faccia questa cifra quasi all'inizio del libro, 31 miliardi è ciò che ci costa ogni anno la burocrazia italiana. Intanto questa cifra come viene calcolata è, insomma, è una cifra non indifferente, 2 punti di PIL. È stata calcolata dalla CGA di Mestre, sono i costi diretti della burocrazia e poi indiretti, cioè tutti i costi aggiuntivi che un'azienda, come anche una famiglia, poi deve sobbarcarsi per stare dietro a tutte le scadenze, perché sono talmente tante appunto le scadenze che bisogna avere un esperto commercialista, bisogna avere l'esperto di finanza locale, bisogna avere l'esperto di smaltimento rifiuti, bisogna avere un avvocato che ti difende quando poi l'Agenzia delle Entrate, il fisco ti chiede 1 milione di euro non dovuti e tu ti devi difendere, andare in contenzioso, e quindi tutti questi costi si sommano per fare una cifra appunto che vale il 2% del PIL italiano, e che è la vera ragione, mi spiegano tutti quanti in questo libro, la vera ragione della paralisi italiana, perché se uno Stato sembra fare di tutto per far fallire chi lavora, è evidentemente uno Stato che va al suicidio. Ecco, ovviamente l'immagine però che può apparire a questa fotografia nel libro che tu scrivi è che appunto, e tu lo dici anche chiaramente, non c'è più uno Stato al nostro servizio, ma noi al servizio dello Stato. Non è una visione un po' manichea? Cioè da una parte c'è tutto il bene, dall'altra tutto il male, questo Stato parassita che ci vuole succhiare sangue in ogni modo. Beh, ci sono anche gli imprenditori furbi che evadono, però diciamo, io parlo anche con chi è andato a lavorare all'estero, in Inghilterra, negli Stati Uniti, lì trovano uno Stato che fa di tutto per aiutarli. C'è un imprenditore che fa pasta, che ha aperto un'azienda in Italia, ci ha messo 7 anni per avere le autorizzazioni, è andato a Chicago, ci ha messo 11 mesi, e poi è stato contattato dal sindaco, dalle autorità locali, dai vigili del fuoco, che gli hanno detto cosa possiamo fare per aiutarla, che consigli le possiamo dare. Qui invece funziona al contrario, cioè sembra che lo Stato faccia di tutto per spolpare un'azienda, come accade anche con le famiglie, per recuperare il più possibile i soldi da lì, senza capire che così le distrugge poi il sostentamento, e quindi c'è una stupidità sostanzialmente della burocrazia, sì, dello Stato italiano. E certo, una stupidità, oppure come spesso io dico, la burocrazia è anche il primo datore di lavoro in Italia. Certo, allora, sì. Ricordo, stiamo parlando con Paolo Bracalini, collega del giornale, ha scritto questo libro La Repubblica dei Mandarini, il sottotitolo è Viaggio nella Italia della burocrazia, delle tasse e delle leggi inutili. Tu Paolo, a un certo punto ti concentri anche sulla questione dei dipendenti pubblici, questione molto annosa, spinosa, intanto sulla questione dei numeri. Tante volte abbiamo detto non sono tanti come numero rispetto alla Francia, rispetto alla Germania. Il problema semmai è quello dell'efficienza della pubblica amministrazione. Tu però ti concentri anche sui numeri. Ti riesci a dare una risposta se siano davvero tanti o no, e o se siano sbilanciati forse in come sono distribuiti? Ma i veri numeri in realtà bisogna andarli a cercare nelle cifre della Ragioneria dello Stato e in altri documenti, perché quello che viene dato continuamente nei report che poi fanno i sindacati, diciamo, che non sono proprio super partes, no? Sono più difensori dell'impiego pubblico, e cioè che sono 3.200.000 dipendenti pubblici, in realtà non sono esattamente veri, nel senso che loro calcolano solo quelli con contratto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, ma poi ci sono tutti altri contratti, tanto quelli a tempo determinato, i consulenti, altri tipi di lavoratori della pubblica amministrazione, poi un esercito spaventoso di dipendenti delle società partecipate, che in Italia abbiamo 7.000 società partecipate da comuni e regioni che hanno 350.000 dipendenti, ed è un'anomalia assoluta in Europa, e quindi sommandoli siamo oltre 4 milioni di persone, ed non è affatto vero che siamo in linea con l'Europa. Quindi in realtà secondo te sono davvero troppi, se si contano, sì, anche bisogna calcolarli in un altro modo. Ti voglio presentare, Paolo, un sindaco, è stato nostro ospite anche in passato, il sindaco di Villafranca di Verona, Mario Faccioli. Buongiorno e ben trovato, sindaco. Lei è diventato famoso perché, e lo abbiamo, è stato già nostro ospite in passato, perché insomma, come definirla? Il sindaco che riesce a licenziare alcuni dipendenti pubblici, che per qualcuno magari è un qualcosa di buono, per altri è un qualcosa di negativo, sindaco, eh? Ma non è vero. Il conto è avercela con i dipendenti, il conto è chiedere correttezza e onestà quando si svolge un ruolo come quello del dipendente pubblico al servizio dei cittadini. Per cui, dove ho visto che c'erano comportamenti non corretti, quindi stiamo parlando anche di situazioni penali, credo che nel far bene il ruolo di amministratore ti accorgi quando le cose non funzionano e devi per forza e per dovere intervenire. Questo non è né una cosa eccezionale, credo sia un atto dovuto. C'è la linea del cellulare che non ci assiste molto, proviamo a richiamarlo. Ci sente meglio adesso, Faccioli? Io la sento benissimo. Sì, forse o è in movimento oppure ha un via. No, sono fermo. Le chiedo questo: che senso ha per lei parlare di Repubblica dei Mandarini, che poi è il titolo del libro? Cioè, come la definirebbe lei la burocrazia dello Stato? Beh, guardi, a parte che condivido quando si dice che ci sono un sacco di leggi che a volte sono una ripetizione o addirittura una contraddizione una con l'altra, però la burocrazia credo che vada vista sotto l'aspetto istituzionale. Mi spiego: quando uno deve fare una pratica deve conoscere che c'è un atto e ci sono delle norme per cui uno deve presentare un determinato progetto. Purtroppo siamo in una situazione in cui c'è una scarsa efficienza da parte degli organismi deputati a valutare i progetti, c'è gente, professionisti che non conoscono bene le norme, perché se le norme le conosci le anticipi e le eviti, per cui ci sono situazioni per cui per la tutela dell'ambiente, per la tutela della sicurezza, per la tutela del rispetto dei contratti piuttosto che delle gare pubbliche credo siano anche atti dovuti, però c'è molta e scarsa preparazione da parte di tutta una serie di persone a vari livelli che porta a far sì che molte cose si prolunghino nel tempo, per poi non metterci l'incapacità a volte di tanti enti di non riuscire a derimere le cose. Mi faccia capire lei quanti dipendenti pubblici ha cacciato, ovviamente perché avevano fatto qualcosa che non dovevano fare, immagino. Guarda, siamo sulle 6 persone, però direi che al di là di questo io ho cercato di portare un'efficienza rispetto a quello che sono i potenziali, perché non dimentichiamo che non è mandando via i dipendenti pubblici che risolviamo il problema di spending review piuttosto che di costi. Bisogna guardare quanto un comune ha bisogno per erogare i propri servizi. Per cui io, quando ho ereditato nel 2008 una situazione, eravamo con più di 200 dipendenti, oggi sono a 150, per cui ho fatto una razionalizzazione e quindi con un abbassamento del numero di persone rapportato al numero di abitanti e rapportato al numero di servizi, per cui ogni servizio sicuramente ha necessità di dipendenti pubblici per dare risposta alla gente, per cui tra pensionamenti, riduzioni e se vuole, come sono diventato famoso, sono riuscito a cacciare qualcuno che non faceva bene il suo mestiere, sì. Ma devo dire che gli altri 150 o persone che comunque in questi 150 sono veramente bravi, hanno il cosiddetto amor proprio nel fare il proprio lavoro, e credo che questa sia la base di tutto. No, ma infatti Paolo Bracalini, la ricetta in questo caso, il sindaco dice erano 200, 6 li ho mandati via, gli altri per pensionamenti eccetera, però ho reso in maniera più efficiente il tutto con 150 persone, cioè dimagrimento da una parte, però mantenimento di dipendenti pubblici efficienti. Non è appunto la ricetta sulla questione della maggiore efficienza più che il tagliare persone to cure, di cui si parlava prima, Bracalini? Sì, no, si tagliano quelli inutili, perché molti sono utili, non ho detto che non ci debba essere un'amministrazione pubblica, ma la maggior parte di quelli di cui parliamo sono costi inutili. E come fa un'azienda quando i conti vanno male, i conti dell'azienda Italia vanno malissimo, cosa fa? Taglia le persone che ritiene non indispensabili. Perché non bisogna poterlo fare con lo Stato, anche con i dipendenti pubblici, che invece sembrano intoccabili? Ma questo poi ovviamente ci attireremo grandi strali. Fatemi sentire degli ascoltatori. Anna ci chiama dalla provincia di Salerno. Anna, buongiorno. Buongiorno a lei. Io sono uno di quelli dell'agenzia. Sì. Una di quelle persone che lavora cercando di scovare il cattivo, sì. Che molto spesso il cattivo non c'è. Sono anche una di quelle persone che va a comprarsi il toner, che va a comprarsi la carta, altrimenti non può servire il pubblico, in quanto non ho la carta, non ho il toner, non ho il mouse. Però l'appalto a monte, un mouse me lo fa costare 75 euro. Io lo compro a 5. Ma come? C'è un appalto? Secondo le regole dell'appalto statale? Hanno cambiato le stampanti nel nostro ufficio. No, mi scusi, Anna, mi faccia capire. Cioè, se lei seguisse le regole dell'appalto della pubblica amministrazione, pagherebbe un mouse 75 euro. No, ma è un danno. Io non lo pagherei nemmeno io, lo pagherebbe anche lei. Sì, certo. Lei nel senso, lo Stato. Lei lo Sto male quando vedo queste cose. Noi, fra i colleghi più umani, perché abbiamo anche Gentaglia, fra i colleghi più umani ci siamo organizzati. Se ce li rimborsano è bene, ma non ce li rimborsano, perché noi dobbiamo prenderlo dall'appalto. Le dico questa che è vergognosa, e poi basta. Sì. Ci hanno sostituito le stampanti. La vecchia stampante produceva 200.000 copie. Sì. Il toner costava 24 euro. Sì. Hanno comprato una stampante che costa a vista 20 euro in meno, 80 euro in meno. Fa un decimo delle copie a 0,28 a copie, perché il toner costa 78 euro. Ma il toner di prima mi costava 24. Che succede? Io dovrei andare giù in cantina, riprendermi la vecchia stampante, tenerla là, ma rischio il posto di lavoro. No, ma io mi rendo conto. Questi sono i nostri capi, i nostri dirigenti. Questa è la gente che ci comanda. Queste sono quelle persone che amministrano i nostri soldi, le nostre tasse. È vergognoso. Cara Anna, guardi, la sua storia, Paolo Bracalini, che può sembrare una storia di piccolo racconto dalla provincia di Salerno, secondo me racconta uno spaccato grandissimo di come funziona in alcuni casi il nostro Stato, no Paolo? Cioè, un mouse a 70 euro. La signora lavora nell'agenzia di entrate, fategli un bel accertamento fiscale a loro, cioè, fatelo a voi stessi un accertamento fiscale, secondo me se ne trovano di belle lì, più che nelle aziende, insomma, che vanno a torchiare gli agenti del fisco. Un autoaccertamento. Sentiamo Katia dalla provincia di Latina. Katia, buongiorno. Buongiorno, salve. Io volevo intervenire nel fatto del libro del signore, sì, che adesso non mi viene in mente. Paolo Bracalini, sì. Paolo Bracalini sulle mandarini, l'Italia dei mandarini. Cioè, noi siamo un popolo di vessati dallo Stato tra varie leggi dei cavilli e roba varia, però non abbiamo. Lo Stato in sé per sé non ci fa rispettare, perché non ci rappresenta in un modo. Noi quando andiamo in un ufficio pubblico, in una scuola, vediamo che i bagni non funzionano, gli uffici non funzionano, cioè lui non è il primo a rispettare le regole che a noi ci chiede lui Stato, in quanto noi non possiamo dobbiamo fare, aprire un'attività, dobbiamo rispettare mille regole alla quale non facciamo neanche in tempo, come diceva giustamente l'autore Bradalini nel libro, non ce la facciamo a stare dietro a tutto e quindi siamo come se fossimo in manette. No, no, ma è chiaro, però io non vorrei su questo coinvolgere un sindaco che, voglio dire, come Faccioli, che lo Stato, magari lei sindaco l'ha guardato in faccia a dire ci sono troppi dipendenti, lo riorganizzo, rendo tutto più efficiente, eccetera. Però non vorrei che fosse poi una faccia a faccia tra noi e lo Stato, vedendo lo Stato come un qualcosa di distante, spesso si dice lo Stato, siamo anche noi, perché Faccioli, secondo me questo discorso rischia poi di essere pericoloso, cioè, come dire, no? Non crede a dire, vedere lo Stato come nemico, mentre noi siamo i virtuosi e lo Stato ci chiede sempre, ma poi quanto siamo in grado noi di dare anche per rendere più efficiente lo Stato? Io credo di essere uno dei pochi che non si è mai permesso di criticare quello che viene fatto dal cosiddetto Stato, ma che poi alla fine è il governo e il Parlamento, non mi sono mai permesso, perché comunque siamo un paese che rispetto all'entrata in euro è entrata con tantissimi e tantissimi debiti, a cominciare dalle piccole amministrazioni, e quindi qui c'è una responsabilità alta, bassa, bassa, alta, veda lei come la vuol mettere, ma qui tutti noi abbiamo ereditato, siamo entrati nell'euro con un bel zaino di debiti, di strutture che non funzionano, di uno Stato che sostanzialmente con la lira, con le svalutazioni, e si facevano mutui, debiti, e quindi siamo entrati poco competitivi e addirittura dietro di 20 anni rispetto a altri paesi. E quindi questo è un dato di fatto che deve far pensare chi svolge oggi un ruolo politico, che è quello di prendersi cura delle proprie cose, a cominciare dai piccoli comuni, e non guardare solo allo Stato come un nemico. I nemici ce li abbiamo anche in casa, nel nostro modo di essere, nel fare politica tutti i giorni, nel guidare le pubbliche amministrazioni, perché se, e poi far capire alla gente che spending review vale per il cittadino, vale per il comune, non sì. Può essere che un comune metta a posto un bagno e dopo 3 giorni un cittadino lo rovina. Ecco, bravo, volevo arrivare proprio lì, sindaco, cioè, perché quello che ci diceva Cattedra Latina, per carità, è interessante, però l'idea, come dire, che se entriamo in un ufficio pubblico e il bagno non è a posto, è forse, intanto perché deve essere a posto, ma poi forse deve essere mantenuto a posto da chi ci va nel bagno, poi non è che ci va lo Stato nel bagno, cioè ci andiamo noi, no? Che facciamo parte dello Stato, o no, sindaco? Dei giardini pubblici, le panchine, i cestini, il modo appunto, di come si appunto. Vive tutti i giorni, cioè, è la nostra casa questa qua, no? Il nostro comune è la nostra casa, questa Italia è la nostra casa, ci vuole più rispetto per le cose da parte di tutti, dal dipendente pubblico che ha una responsabilità di dare un servizio alla gente per cui lo paga, al cittadino di rispettare, perché altrimenti sono tasse che gli arrivino. Ci vuole un senso comune di appartenenza. Se manca questo alla base, è difficile. Manca tutto, è chiaro. Ma certo. Allora, Paolo Bracalini, Renzi vuole, così la buttiamo anche un po' in politica, vuole proprio, adesso si è lanciato a dire com'è che lo chiama, il taglia burocrazia, arriva il nuovo taglia semplice, adesso vedremo come la chiamerà. Insomma, la lotta alla burocrazia è proprio forse il primo punto sul quale Renzi si concentra. Infatti lui usa anche questa espressione mandarini che hai messo nel titolo del libro opportunamente. E cosa deve fare secondo te per incidere davvero in questo campo? Questa è la battaglia più dura di Renzi, secondo me, perché non ha ancora le armi per combatterla, nel senso che lui viene da un'amministrazione locale, non ha i suoi uomini chiave dentro la Ragioneria Generale dello Stato, dentro il Tesoro, negli uffici, cioè tecnici, che io nel libro racconto facendo parlare ex ministri, sono quelli che poi governano veramente il paese, perché non è che un ministro decide tutto, anzi di solito dà un indirizzo politico e poi i burocrati. E gli scrivono tutto e lui poi firma, quindi le leggi vere le scrivono altri, non le scrive la politica. E sono burocrati che fanno squadra fra di loro. Quindi come incidere all'interno della burocrazia, all'interno del ministero? Deve smantellare questi mandarini, che però il problema grosso per cui nessuno ci è mai riuscito, e sono quelli che poi hanno le conoscenze, per cui i ministri poi arrivano e si appoggiano a questi, perché alcune figure che io racconto, tipo Incalza, che magari la gente che ci ascolta non sa chi sia, in realtà è il vero ministro delle infrastrutture da 20 anni di questo paese, il ministro ombra, nell'ombra, è quello che ha in mano tutta la rete di conoscenze e tutto il know-how per, sulle infrastrutture, per cui tutti i ministri poi si appoggiano a lui e lui è il vero ministro. Anche perché tu dici cambiano i ministri, ma molti funzionari no. In ogni caso, se volete approfondire, ovviamente potete trovare il libro in vendita, io lo ricordo, Paolo Bracalini, che è collega del giornale, il titolo è La Repubblica dei Mandarini, viaggio nell'Italia della burocrazia, delle tasse e delle leggi inutili, editore Marsilio, lo trovate in libreria. E ringrazio Paolo Bracalini, così come ringrazio il sindaco di Villafranca di Verona Mario Faccioli per essere stati con noi. E che dire, da domani ritorniamo all'orario canonico classico, dalle 6:30 alle 9, questo è l'orario di 24 mattino. Ringrazio tutti in redazione, Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli, Pietro Lacorte, Paolo Corleoni, tutti in regia, ci siamo alternati, abbiamo fatto una grande festa e che dire, adesso ci andiamo a bere un caffè magari, ci ritroviamo domani. We'll be right back.